La Jugoslavia è una bici, il manubrio è la Croazia perché è la sua guida, il maresciallo Tito era croato, il telaio invece, la struttura portante, è la Serbia. I pedali, motore economico del tutto, la Slovenia. Le ruote, amalgama delicata di aria, acciaio e gomma, sono la Bosnia. La sella, che si sfila senza clamore, il Montenegro. La catena, piccola parte, a servizio del tutto, la Macedonia. E infine il campanello, il Kosovo. Nel 1989 si è messa a suonare, ma, nascosto dal frastuono del muro che cadeva, nessuno l'ha sentito. E questa metafora a pedali della Jugoslavia di Andrea Aragona, autore del libro Jugoland, In viaggio per i Balcani, Becco Giallo editore, un libro particolare perché è un libro anche a fumetti in alcune sue parti, disegnato da Gabriele Gamberini, una sorta di manuale di viaggio per non addetti ai lavori, ma un viaggio che non è solo una guida turistica, ma un viaggio anche antropologico, è un viaggio fatto di storie e di storia, un viaggio per conoscere quel pezzo d'Europa, un po' dentro, un po' fuori, un po' indeciso. E Andrea Aragone, qua con me. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti. Allora, Jugoland con la Y, tanto Jugoland, che dà l'idea di un po' è un qualcosa di fantasioso, un po' una sorta di parco di divertimenti. Che cos'è questa Jugoland oggi? Beh, Jugoland è sicuramente un posto dove ci si diverte oggi. E l'intento del libro è un po' questo, cercare di raccontare quello che è rimasto oggi della Jugoslavia, quindi i paesi balcanici, tutte le repubbliche che sono nate dalla guerra degli anni 90, per invitarle ad andare a visitare. Quando pensiamo a Jugoslavia pensiamo sempre alla guerra, ci viene in mente Srebrenica, l'assedio di Sarajevo. Ecco, dopo 20 anni però, anche se ovviamente ci sono ancora degli strascichi della guerra, è bene mettersi in testa che quei paesi oggi sono qualcosa di diverso, c'è gente ospitale che li vive ed è bello andarli a visitare. Tenteremo di fare una sorta di visita radiofonica appunto attraverso la ex Jugoslavia che tu conosci bene, un viaggio in più tappe, sei stato tante volte, mi raccontavi prima, alcuni viaggi mirati, altri viaggi un po' più improvvisati, interviste che volevi fare, persone che invece ha incontrato per caso. Noi qui parliamo di Europa, di Unione Europea, di cultura europea. Ecco, lì che Europa è respirato? Questa è una domanda molto interessante, perché quando si pensa ai Balcani ci si immagina qualcosa che è molto lontano, senza ricordare che invece sono sostanzialmente dei nostri vicini, i popoli balcanici. E quindi sono partito, come dice Luca Zanoni nella sua prefazione, che ringrazio Luca Zanoni e Osservatorio Balcani Caucaso per la loro competenza negli studi che producono sui Balcani, ho provato a fare un viaggio attraverso l'Europa che c'è lì, attraverso quelle repubbliche per scoprire quanto ci sono vicine e quante invece ci sono lontane. Ho scoperto che in realtà ci sono molto più vicine che lontane, anche se noi non lo sappiamo. Prima abbiamo sentito ad esempio un pezzo degli Asra, si intitola Balkan, la canzone più famosa degli Asra. Gli Asra sono un gruppo che è jugoslavo, croato, che negli anni 80 è molto ascoltato dai giovani jugoslavi, fa parte di quel filone rock jugoslavo che spopolava in Jugoslavia, ma che ha fatto fatica a spopolare anche qui da noi. Da noi sono arrivate le canzoni forse più tradizionali, più folk, e invece quando si va in Jugoslavia si scopre che anche la musica ha molto altro da dire, noi abbiamo molto da scoprire. Jugoland, diciamo anche appunto questo taccuino di viaggio per non addetti ai lavori, nel senso che è veramente una cosa che può essere sfogliata da tutti, perché è un viaggio a 360 gradi, e anche questa scelta di fare delle pagine a fumetti che è molto moderna, molto, molto attuale, e cosa dà in più? Nel senso che è una sorta di reinterpretazione della ex Jugoslavia? Non vuole essere una reinterpretazione, vuole essere uno stimolo in più attraverso un nuovo mezzo. Il libro è edito da Becco Giallo è una casa editrice che fa cronaca, che fa giornalismo a fumetti, e si è voluta lanciare in questa nuova avventura, un po' scritto, un po' fumetti, un po' immagini e un po' fotografie. Lo abbiamo fatto sulla Jugoslavia e abbiamo voluto usare i fumetti parlando di Jugoslavia perché Perché lo strumento, perché il fumetto è uno strumento che è semplice, che permette di avvicinare anche qualcosa che sembra frivolo il fumetto, ma invece non lo è. Permette di approfondire, permette al lettore di tornare indietro, ripensare. Il lettore diventa parte del fumetto. Ecco, ci è sembrato utile perché Jugoland non vuole essere un libro per specialisti, vuole essere un libro per tutti, soprattutto per coloro che hanno spesso sentito parlare di Jugoslavia, però non hanno le idee ben chiare. Ecco, noi abbiamo voluto con questo libro, con questo mezzo che è quello del fumetto, cercare di avvicinare chi ha un po' di interesse ma che magari è spaventato dai dettami di geopolitica che possono essere effettivamente molto pesanti per chi non ha letto nulla prima.